Perfetto Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Il compito del Presidente non è quello di tutelare una maggioranza che si tutela da solo, e neanche di far fare il principio incredibile che, poiché l'Aula a maggioranza piglia alcune decisioni, l'Aula è sacra quando non violi il regolamento e la Costituzione. Quindi lei si è appiattito non nella funzione di Presidente, lei fa il servo sciocco della maggioranza e non tutela la minoranza. Senatore Giovanardi, le sue offese sono una medaglia, grazie. Così, giusto per farvi respirare un po' il clima, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, oggi in Senato sul dibattuto DDL Cirinnà, quello su unioni civili, avete sentito Giovanardi, il nuovo centrodestra, che ha dato al Presidente del Senato Grasso del servo sciocco della maggioranza, e lui ha risposto: ogni sua offesa per me è una medaglia. E staremo naturalmente molto su questo tema, ci dovevamo raggiungere telefonicamente tra poco Paola Concia, ex parlamentare del PD, che però sta cercando di compattare un po' i suoi in questi giorni in Senato, fa sempre parte comunque del PD, e Alessandro Pagano invece del nuovo centrodestra, che fa parte del gruppo dei parlamentari per la famiglia. Sentiremo un po' le posizioni su questo argomento, però vi torno a chiedere, siccome c'è molto dibattimento sulla libertà di coscienza, ieri l'avrebbe assicurata anche Renzi ai suoi del PD sulla stepchild adoption in particolare, vi chiedo, e anche c'è la polemica sul voto segreto, no? Anche questo scontro era dovuto in parte al fatto che Grasso ha rifiutato su alcuni elementi, su alcuni punti, il voto segreto. Secondo voi è possibile che sia necessario il voto segreto per votare un disegno di legge come questo? Nel senso, ci si può vergognare di avere una posizione o il sì o il no, e quindi non volerla esprimere palesemente? Secondo voi è giusto e opportuno? 349-238-6666, il numero come sempre per i vostri messaggi, SMS 349-238-6666. Altrimenti, per voi giorno e notte, ricordate che c'è sempre la pagina Facebook di Effetto Notte, quindi le vostre opinioni le potete tranquillamente postare sulla pagina Facebook del programma. Quindi giusto non fare il voto palese, ma rifugiarsi nel voto segreto su un disegno di legge come questo. Parleremo in parte anche della frase shock che poi sarebbe stata smentita da questo consigliere ligure della Lega, e poi direte anche il vostro parere. Avevo messo anche un accenno su Facebook se volete andarlo a vedere, e poi ovviamente ci collegheremo anche con Sanremo. Ci sono già le nuove leve, se non sbaglio, stanno cominciando a cantare la seconda serata. Proviamo a sentire. Ti dico cosa provo, no, siamo fatti per restare soli, forse è l'unica ragione per cui siamo ancora qua, e no. Dico cosa provo, no, non siamo fatti per restare soli. Non siamo fatti per restare soli, probabilmente diranno così persone eterosessuali e persone omosessuali. Naturalmente, per stare sul tema, una faccia giovanissima deve essere proprio uno degli esordienti. Stasera ci sono anche loro, poi ne parleremo, ma adesso vi riassumo la giornata. Unioni civili, disegno di legge Cirinnà supera il primo voto al Senato, nel PD tensione sulla libertà di coscienza, frase shock di un consigliere ligure della Lega che poi smentisce, e il Portogallo oggi dà il via libera alle adozioni gay. Mercati, rimbalzano le borse europee, Milano vola coi bancari, più 5%, probabile rinvio del rialzo dei tassi americani. L'omicidio di Giulio Regeni, sarebbe stato ucciso in un appartamento del centro del Cairo, il Times parla di omicidio vergognoso. Migranti, l'Unione Europea va avanti con la procedura contro l'Italia sui rifugiati e sblocca 124 milioni per i salvataggi in mare del nostro paese. Francia, via libera dei deputati alla legge per la revisione costituzionale, tra i punti la revoca della nazionalità per chi si macchia di reati legati al terrorismo. Amministrative, per il centrodestra Stefano Parisi dice sì alla candidatura di sindaco di Milano, a Roma Rita Dalla Chiesa invece si sfila. Zika, l'OMS lancia un monito, le donne incinte che hanno contratto il virus e hanno paura della microcefalia dovrebbero avere l'accesso a un aborto sicuro, e c'è il primo caso in Emilia-Romagna, un trentenne rientrato da Santo Domingo. Sanremo, debutto con ascolti boom, stasera seconda serata del festival, tra gli ospiti Eros Ramazzotti e Nicole Kidman. Partiamo quindi dal disegno di legge sulle unioni civili. Oggi sono cominciate le votazioni al Senato ed è stato superato il primo ostacolo. Il disegno di legge sulle unioni civili passa il primo scoglio, ma poi tutto viene rimandato a martedì. Il presidente del Senato Pietro Grasso respinge il voto segreto sul rinvio del testo in commissione, proposto da una settantina di senatori dell'opposizione. Grasso si aggancia all'articolo 2 della Costituzione, che parla di formazioni sociali specifiche, e non al 29, ovvero quello sul matrimonio. Il voto palese respinge la proposta. Il Senato non approva. Votanti 297, maggioranza 149, favorevoli 101, contrari 195, astenuti 1. Il leghista Roberto Calderoli accusa Grasso di una scelta smarcatamente politica. Viene immediatamente convocata la conferenza dei capigruppo, ma non ci sarà contingentamento dei tempi. In aula però il ministro della giustizia Andrea Orlando continua a parlare della necessità della legge. Questa normativa nasce da un'esigenza di colmare una lacuna normativa segnalata da più soggetti della giurisdizione e indicata autorevolmente da pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo. Lo slittamento del voto a martedì permette al PD di cercare l'accordo al suo interno con i senatori cattolici e magari anche lo svoltimento di quelli della Lega. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E sul tema gay oggi hai rotto la frase shock, la presunta frase shock del consigliere regionale della Lega Nord Giovanni De Paoli. Il centrodestra ha detto che è vittima di pregiudizi, secondo il governatore Giovanni Toti. Ha affidato ad una nota il chiarimento dopo un pomeriggio di polemiche il consigliere regionale leghista ligure Giovanni De Paoli, 63 anni. Un grande polverone sul niente, scrive. Non ho mai detto la frase che mi è stata erroneamente attribuita. Al contrario, ho detto: se avessi un figlio gay non lo brucerei nel forno. Si gioca dunque tutto su quel non, forse sussurrato. E sì, perché per ore, nella bufera, De Paoli era finito per il concetto esattamente opposto. L'equivoco si sarebbe verificato a margine di una seduta della commissione regionale convocata per discutere della legge sulla famiglia, quando in audizione c'era il coordinamento Rainbow, che mette insieme molte sigle di associazioni omosessuali. Sono stati gli organi di stampa non presenti all'incontro a travisare tutto, ipotizza ancora il consigliere. Eppure, prima della smentita, avevano chiesto le dimissioni di De Paoli i consiglieri regionali di PD e 5 Stelle. Anche la consigliera leghista Pucciarelli si era dissociata. Anna Rita Lambrosio, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E proprio oggi il Portogallo ha dato il via libera alle adozioni da parte delle persone omosessuali. Restiamo sulla politica italiana col voto nelle città. A Milano Stefano Parisi ha ufficializzato la sua candidatura, cogliendo l'invito che mi è stato rivolto da tutte le forze politiche del centrodestra, ha annunciato in una nota a Parisi: ho deciso di candidarmi per diventare il prossimo sindaco di Milano. Ancora da definire invece, sempre nel centrodestra, la candidatura per il sindaco di Roma. Rita Dalla Chiesa ha declinato l'invito dicendo che preferisce sfilarsi, che il suo lavoro è un altro. Sentiamo Dalla Chiesa il microfono di Simone Spezia. Ringrazio tutti per la stima, io però non ho deciso, non credo di essere all'altezza, sono una persona assolutamente normale, con la politica non ho mai avuto molto a che fare, poi uno può fare politica tutti i giorni, anche dalla televisione, perché magari esprime delle idee, va in una direzione anziché in un'altra, ma io non lo so, posso dire che sono nel panico. E stasera c'è il Consiglio dei Ministri, dovrebbe essere iniziato adesso, lo sapete, di solito inizia sempre un po' più tardi, slitta, che approverà un maxi decreto per regolare alcuni punti critici del sistema bancario. Ne parleremo poi più tardi con Effetto Notte, anche per vedere a che punto sono i lavori del Consiglio dei Ministri. Per quanto riguarda i mercati finanziari, oggi è arrivato il rimbalzo delle borse, con Piazza Affari che supera il 5%, ma la Fed, la banca centrale americana, frena su un rialzo dei tassi di interesse. È stato il giorno del recupero per i mercati europei, con Piazza Affari che ha messo segno di gran lunga la migliore prestazione. Trascurando il tonfo della borsa di Tokyo, i listini continentali hanno chiuso positivi grazie alle banche coperte di ordini d'acquisto dopo i recenti tracolli. Milano ha segnato in chiusura un rialzo del 5,03%, Parigi e Francoforte di oltre l'1,50, Londra dello 0,71%. A Piazza Affari balzo di Intesa San Paolo su del 14,45%, seguita da Unicredit più 11,91% e dal Banco Popolare salito dell'11,09%. Bene anche Monte dei Paschi in crescita del 6,75. Non si ferma invece la discesa di Saipem, meno 1,31%, alla vigilia del termine per l'esercizio dei diritti sull'aumento di capitale. La volatilità sui mercati, che ha caratterizzato l'inizio di questo 2016, rimane comunque elevata e gli investitori hanno ascoltato con attenzione le parole della presidente della Fed, Janet Yellen, al Congresso. Lo scenario economico rimane incerto e gli sviluppi delle economie straniere creano rischi alla crescita economica statunitense, ha detto la governatrice della Banca Centrale USA, spiegando che la politica monetaria resterà accomodante. Yellen ha ribadito la linea di un rialzo graduale dei tassi USA che in questo contesto, ha sottolineato, potrebbe subire ritardi non essendo su un percorso prestabilito. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Degli aggiornamenti sull'omicidio di Giulio Regeni, gli inquirenti egiziani hanno scoperto, così dicono i media, che la vittima è stata uccisa in un appartamento al centro della capitale dopo il suo corpo è stato trasportato sulla strada desertica Cairo-Alessandria, dove poi è stato ritrovato. Lo sostiene il sito del quotidiano indipendente egiziano Al-Masri Al-Youm, senza citare fonti ma dando conto delle indagini della squadra di ricerca della prefettura di sicurezza di Giza. E per i funerali del giovane ricercatore, che ci saranno venerdì a Fiumicello, in provincia di Udine, sono attese diverse migliaia di persone. Francia, il presidente Hollande riesce a far passare tra le polemiche il progetto antiterrorismo, ma la strada è ancora lunga. François Hollande ha tirato un sospiro di sollievo. Il progetto di revisione costituzionale, che comprende una serie di misure antiterrorismo, è stato approvato dall'Assemblea nazionale nonostante forti polemiche. La battaglia comunque per lui non è ancora vinta. Il testo passa ora al Senato, dove la maggioranza è nelle mani della destra, che ha promesso di riscrivere quel progetto. Non solo, alla fine deputati e senatori assieme dovranno dare ai tre quinti il via libera definitivo, prospettiva ancora incerta. La revisione punta a inserire nella Costituzione la possibilità di ricorrere allo stato di emergenza e quella di punire, togliendo la nazionalità francese, chi si macchia di un reato legato al terrorismo. Per Hollande il tutto doveva realizzarsi all'insegna dell'unità nazionale. Oggi 317 deputati hanno detto di sì, ma ben 199, tra cui svariati socialisti, suoi compagni di partito, hanno votato contro. Da Parigi, Leonardo Martinelli, Radio 24, Il Sole 24. E adesso negli Emirati Arabi, dove 8 donne entrano nel governo, ci sono nuovi dicasteri, è stato varato un nuovo esecutivo con 29 ministri. Tolleranza e felicità sono tra i nomi dati questi a due ministeri negli Emirati Arabi Uniti, chiamando per la loro guida questi due dicasteri due donne. Donna è anche una terza ministra che è stata chiamata per la guida del dicastero della gioventù. Torniamo in Italia perché oggi si ricordano i martiri delle foibe. Musica dal Senato, dove si è celebrata la giornata del ricordo. Fra il 1943 e il 1947 oltre 10.000 persone furono gettate anche vive nelle foibe, le cavità carsiche ai confini orientali, per volere del maresciallo Tito e dei suoi partigiani, in nome di una pulizia etnica che doveva annientare la presenza italiana in Istria e Dalmazia. Un genocidio riconosciuto ufficialmente nel 2004. Il capo dello Stato Sergio Mattarella, in visita negli Stati Uniti, si è augurato che la storia e la memoria comune possano fornire un grande aiuto per guardare al futuro. In aula a Palazzo Madama l'invito della ministra dell'istruzione Giannini, l'Italia democratica e repubblicana, l'Italia della scuola, dice che quel grumo di lutti non sono solo circoscritti a un luogo, ma sono lutti nazionali ed europei. Anna Rita Lambrosio, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E così rispondo anche a Giulio da Pistoia al 349-238-6666, che dice si parla sempre meno delle foibe, per questa immensa tragedia non c'è la solita pubblicità come per il 27 gennaio, se ne è parlato come visto. E poi invece parliamo di Ilva, si entra nel vivo della trattativa per la cessione, oggi c'è stato sciopero a Taranto e in altre città da parte dei lavoratori, intanto sono 29 le manifestazioni di interesse per la società e per i suoi asset parziali del gruppo Ilva. Zika, il virus Zika, OMS lancia un monito, le donne che vogliono mettere fine a una gravidanza per paura della microcefalia dovrebbero avere accesso a servizi sicuri per abortire. Lo ribadisce l'OMS, così come questo appello era stato rilanciato nei giorni scorsi anche dall'ONU. E c'è un caso a Rimini, un trentenne che è tornato da Santo Domingo, il primo caso in Emilia-Romagna. Per lo sport, annuncio shock di Giuseppe Abbagnale, mito del canottaggio azzurro e oggi presidente della Federazione Italiana, che ha detto che suo figlio Vincenzo, campione del mondo e capovoga del lotto in vista di Rio 2016, sarà con ogni probabilità squalificato per doping e non sarà quindi alle Olimpiadi. A saltato, dice, 3 controlli antidoping e la normativa è chiara, è un'ingenuità, ma dal regolamento costa da 1 a 2 anni di squalifica. E poi c'è Sanremo, debutto con Ascolti Boom ieri sera, questa sera c'è la seconda serata, abbiamo sentito del festival già un pezzettino di un esordiente, tra gli ospiti Eros Ramazzotti e Nicole Kidman. La notizia extra è questa: dalla vegetazione australiana un condom super sottile, dalla Spinifex, che è la vegetazione nativa australiana, arriveranno i condom del futuro, super sottili ma resistenti. È una cosa seria, perché alcuni ricercatori dell'Università del Queensland hanno sviluppato un metodo per estrarre nanocellulosa da utilizzare come additivo nella produzione di lattice. Grazie alle fibre di questa Spinifex, spiegano gli scienziati, si riesce a migliorare il lattice in modo da ottenere condom sottili come un capello umano senza alcuna perdita di resistenza, e potrebbero anche servire, questo materiale potrebbe servire anche per fare guanti sottilissimi ma resistenti, in grado di restituire più sensibilità possibile alle mani dei chirurghi. Per il momento quindi la giornata ve l'ho raccontata, tra poco cominceremo a entrare nel cuore degli argomenti. Volevo intanto vedere i vostri messaggi a proposito del voto segreto, voto palese. Edoardo dice: ma scherziamo, dobbiamo capire e sapere quello che votano, sono i nostri delegati, quindi a favore del voto palese anche sulle unioni civili. Wally dice: il voto segreto è necessario proprio per esprimere un voto su una tematica critica. Continuate con i vostri messaggi al 349-238-6666, così come sulla pagina Facebook di Effetto Notte. Ci sentiamo un momento. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Rieccoci insieme con i vostri messaggi, con gli argomenti e con gli ospiti che comincerò a salutare tra pochissimo, su un tema così dibattuto ormai da settimane, da mesi, direi da anni, ma poi da quando è entrato nel vivo in questo iter tormentato parlamentare, insomma è inevitabile parlarne quasi tutti i giorni, anche se ho visto che adesso i voti ricominceranno poi dalla settimana prossima e forse, diciamo, si arriverà più o meno sino a fine febbraio, ma adesso sentiremo. Invece torno sui vostri messaggi a proposito del voto palese o voto segreto. Enea scrive: se uno non è libero di votare secondo coscienza anche contro la linea del proprio partito, significa che serpeggia un pochettino, si fa per dire, dice, di mafia. Alberto: da un lato i parlamentari pusillanimi hanno paura di perdere voti e quindi lucroso cadreghino, e dall'altro sono inginocchiati ai voleri dei chiesaruoli tonacati per far trionfare i quali bisogna nascondersi nel segreto dell'urna. Elena: li abbiamo votati perché si assumano le loro responsabilità e quindi ci devono mettere la faccia. Allora vi ricordo brevemente le notizie più importanti della giornata e poi iniziamo con questo argomento. Il disegno di legge Cirinà supera il primo voto, scontro nel PD con i Cattodem, libertà di coscienza su 3 emendamenti, nulla di fatto nel possibile accordo che poteva esserci tra Democratici e Lega a proposito degli emendamenti. La presidente della Banca Centrale Americana Yellen dice: ci sono dei rischi per l'economia, si allontana il rialzo dei tassi, intanto le borse europee rimbalzano, Milano chiude come la migliore. E poi Unione Europea avanti con la procedura contro l'Italia sui rifugiati. E Renzi avverte: l'Unione Europea suona mentre il Titanic affonda. E poi dalla Chiesa si sfila, a proposito delle amministrative italiane, Rita dalla Chiesa si sfila dalla possibile candidatura a Roma, Parisi invece, Stefano Parisi in campo a Milano, è quindi il candidato ufficiale del centrodestra. Regeni ucciso in un appartamento del centro del Cairo, secondo un giornale indipendente egiziano, mentre il Times scrive: è stato un omicidio vergognoso. Quindi oggi in Senato, dicevamo, sono cominciate le votazioni sul disegno di legge Cirinnà e ha superato il primo voto, il primo ostacolo, il primo scoglio, come vogliamo chiamare, con 101 voti a favore, 195 contrari e un astenuto dell'Assemblea del Senato. E quindi è praticamente è stata respinta la richiesta di non passaggio ad alcuni articoli sul disegno di legge, cosa che avrebbe fatto slittare il disegno di legge di altri 6 mesi. Quindi questa cosa non è passata, che era stata presentata dai senatori Roberto Calderoli della Lega, Gaetano Quagliarello di Idea e altri 74 senatori. Sono stati decisivi i voti del Movimento 5 Stelle, che con la capogruppo Paola Taverna avevano assicurato che avrebbero votato compattamente di sì, come anche nei giorni scorsi, così per il momento è stato. Quindi si è creato questo asse PD Movimento 5 Stelle, ALA, De Verdignani e SEL, mentre il Nuovo Centrodestra ha votato a favore di questa richiesta di non passare agli articoli. Ne parliamo con Paola Concia. Buonasera. Buonasera. Ex parlamentare del PD, ora sempre nel PD, sempre Partito Democratico, svolge però l'attività di Senior Consultant Sales alla Camera di Commercio Italiana per la Germania. Ci traduce per chi non fosse troppo addentro. Sì, che cosa fa? Sono consulente per l'Italia, insomma, Italia per la Camera di Commercio Italiana della Germania, che sta a Francoforte. Quindi mi occupo di internazionalizzazione, di servizi alle imprese italiane che esportano in Germania. Paola Concia, lei è in un appartamento, in una zona isolata, in un... No, ecco. No, ecco, mi sente? Sì, sì, adesso meglio, non si muova da così, per favore. No, mentre io saluto... sono ferma, sono seduta. Mentre saluto l'onorevole Alessandro Pagano, che è deputato di Area Popolare, coordinatore dei parlamentari per la famiglia, buonasera. Buonasera a tutti. Allora, abbiamo visto oggi questo primo scoglio, però Paola Concia, lei fa parte del PD, non è più deputata, però è andata oggi in Senato a cercare di ricompattare un po' i suoi, perché sembra che ci sia molta tensione sulla libertà di coscienza, sulla step child adoption all'interno innanzitutto del PD, o no? Ma guardi, insomma, naturalmente in Italia c'è sempre questa passione per la drammatizzazione. Il melodramma. Del melodramma. Ma la cosa è molto meno, cioè è una cosa che si sa, ci sono alcuni senatori definiti catto dem, che non sono quel numero che si dice, sono un numero minore di quelli che si dice, e che continuano a fare la loro battaglia, perché appunto sulla stepchild adoption, contro la stepchild adoption, e questo, siccome ci saranno dei voti segreti, sappiamo, si sa che loro voteranno contro, punto. Diciamo, non è una nuova notizia, ecco, io purtroppo mi dispiace per i mass media, ma non è una nuova notizia, cioè, le cose sono quelle che si sanno da settimane. Ma lei è pro o contro il voto segreto? Ma guarda, il voto segreto, io sono stata parlamentare, il voto segreto in altri parlamenti non esiste. Io posso capire le persone che dicono, ma perché non ci si mette, come si dice, ci si mette la faccia, però fa parte del regolamento, quindi è una cosa che, se non si cambia il regolamento, è prevista democraticamente, cioè non è che è una forzatura, purtroppo, cioè, è prevista, purtroppo dice, quindi viene utilizzata, è prevista dal regolamento, esattamente. Però questo disegno di legge, Paola Poi Concia, dopodiché io preferirei che si facesse il voto palese, ma è possibile, non è che si va contro la legge. I parlamentari che chiedono 20 senatori, bastano 20 senatori per chiedere il voto segreto, e quindi lo chiedono. Così si vuole. Senta, però questo disegno di legge ha sicuramente, al di là dei punti di vista positivi, negativi, eccetera, ha una grave colpa di aver chiamato la stepchild adoption, perché adesso le faccio sentire sia Calderoli che Scilipoti, attenzione. Allora cos'è sta roba qua se non è il matrimonio dei gay, a cui si è voluto fare anche un'ulteriore aggiunta, perché non bastava questo danno, si è voluti andare a introdurre, chiamandolo anche con un termine anglosassone che poi nel testo è ancora più complicato perché è un continuo rinvio ad altri articoli e ad altri commi, la cosiddetta stepchild adoption, cioè l'adozione del figliastro. Step children, io più comunanza con le cose normali, non con le cose anormali che voi mettete nelle leggi. Correlato al tema naturale dei figli naturali nati dal concepimento è il tema dei figli adottivi, cioè dire quello che in inglese si chiama step child adoption, cioè dire questa lingua che noi utilizziamo ricorrentemente. Insomma, Paola Concia riconosce che insomma, da step children a step children fanno abbastanza ridere, nel senso che non è difficile pronunciarla, ma comunque io sono anche d'accordo, siccome nella scorsa legislatura sono anche d'accordo sul fatto di aver dato un nome inglese che ha creato una gran confusione, nel senso che bastava chiamarlo, io per esempio nella mia proposta di legge, quando la presentai, fu la prima proposta di legge nella mia vita che ho presentato, si chiamava istituzione della figura del cogenitore, perché tra l'altro neanche figliastro va bene, no? L'abbiamo eliminata. Un po' deteriore, diciamo, come sono un po' stridente. Ma no, basterebbe chiamarla, bastava, io capisco non la sanno pronunciare, perché noi in Italia poco parliamo inglese, non la sanno pronunciare, e poi ha creato sì, un po' di confusione tra le persone, esatto, persone comuni. Allora, perché è esattamente l'istituzione della figura, non c'è niente di drammatico, è semplicemente in una coppia, qualsiasi coppia, quando ci sono due genitori e uno solo, questo è genitore naturale, quindi esiste un solo genitore naturale, e questo bambino cresce in questa coppia, e se però il genitore naturale viene a mancare, questo bambino può, ecco, bambino può, se non ci fosse la stepchild adoption, questo bambino potrebbe essere addirittura adottato, e mentre ecco, invece questo bambino è cresciuto con due genitori, è una cosa drammatica, no? Chiarissima, Paola Concia. Vorrei sentire adesso Alessandro Pagano, onorevole Pagano, per voi il nuovo centrodestra rimane sempre questo l'aspetto più controverso, la stepchild adoption, no? Quindi come intendete andare avanti? La crisi di governo, diceva tempo fa, giorni fa, Alfano, no, non c'è, al massimo faremo poi un referendum, siete sempre su questa linea? Guardi, intanto per fare un ragionamento compiuto, se no stiamo veramente un po' frammentati e si rischia di non dare un messaggio compiuto all'ascoltatore. Intanto comincerei a dire che quello del voto segreto, perché mi pare che avete dato tanto spazio, sia un elemento assolutamente corretto e giusto, non solo perché, come diceva giustamente la Concia, è previsto dal regolamento, ma anche perché sui temi etici che appartengono alla propria coscienza, io penso che questo appartenga a un patto assolutamente naturale, quello di poterlo esprimere all'interno della propria identità e del proprio intimo, più che identità, del proprio intimo. E quindi sarebbe grave se questo non venisse riconosciuto. Tutto questo a maggior ragione con il clima che si respira in questi giorni alla Camera, anzi in questo caso al Senato, perché è evidente che ci sono state talmente tante forzature a livello di diktat di partito, di alcuni partiti, segnatamente quello del Partito Democratico e 5 Stelle, che hanno fatto sì che molti parlamentari sono in questo momento compressi nella libera possibilità di esprimere il proprio parere, che non è un parere qualsiasi, è quello di rappresentanza del popolo. Però mi pare che nel 5 Stelle anche qualcuno l'abbia detto, 5 o 7 abbiano detto palesemente che voteranno contro, no? Gli altri quindi l'hanno detto apertamente. Possono essere anche uno, però il fatto stesso che ci sia una pressione mediatica e poi soprattutto addirittura condizionante nei confronti di qualcuno crea senz'altro le condizioni, perché questo regolamento, quindi previsto da chi evidentemente dal Senato, debba essere rispettato. Penso che questo sia un elemento di civiltà su cui il fatto stesso che taluni vogliano realizzare delle compressioni o comunque e non questo volerlo, è chiaro, è chiaro, lunga, quindi dice sia diritto lunga al voto segreto. Detto questo, per fare capire che realmente è un tema su cui bisogna stare molto attenti, andiamo a vedere la posizione nostra. Noi siamo dell'avviso che l'articolo 5, che prevede proprio la stepchild adoption, sia assolutamente da eliminare, perché l'adozione del figlio minore dell'altro coniuge è a tutti gli effetti un passepartout per poter poi realizzare quello che viene chiamato in gergo utero in affitto. Intanto cominciamo a dire che questi casi che sono proprio previsti sono 520, sono esattamente quelli che l'Istat nell'ultima indagine statistica ha certificato, quindi stiamo parlando di casi assolutamente irrisori, minimi, decisamente fuori da ogni contesto complessivo, soprattutto se si pensa che i figli, che le coppie senza figli in Italia sono all'ordine di milioni, e stiamo parlando poi di parecchie decine di migliaia di persone che invece vorrebbero adottare realmente dei bambini. Ma questa è un'altra storia, rischiamo di mischiare un po' troppo capire le cose. Però io desidero puntare l'attenzione sul fatto che siano soltanto 520 casi. Quindi lei sta parlando di coppie di uomini, Pagano? Di coppie di uomini? Perché le donne, lei lo sa che li fanno. Stiamo parlando di bambini che in questo momento sono stati già adottati da coppie di uomini o di donne. Ma detto questo, la stessa adozione, e quindi andremo subito alla posizione nostra. Noi siamo assolutamente contrari all'approvazione dell'articolo 5, perché ovviamente è il passepartout, dicevo poc'anzi, per poter avere l'utero in affitto, cioè la barbara possibilità di andare a mercificare il corpo delle donne comprando l'ovocito di una donna, inseminandolo con lo spermatozoo e poi inseminandolo nel corpo di un'altra donna. Operazione, come dice lo stesso senatore o lo giudice, che andando contro la legge me l'ha già realizzato, costa intorno, l'ha detto anche in una trasmissione televisiva molto nota, costa oltre 100.000 euro. Quindi un'operazione non soltanto che mercifica la donna, ma anche per rischi, quindi non necessariamente, non proprio per la portata di tutti. Questo per dirla in maniera chiara che dopo tanti anni di femminismo, tanti anni di lotte fatte a vantaggio della donna per poterla portare fuori dalle dalle tenebre, come per usare termini tipici di un mondo che è certamente quello femminista, si sta ritornando invece alla mercificazione. Chiarissimo, però questo io dico, aspetto... mi scusi, io dico sia a lei onorevole Pagano che anche a Paola Concia questa cosa. Intanto c'è il presidente dei matrimonialisti italiani Gassani, l'avvocato Gassani, che dice in realtà questa legge già c'è in Italia, è del 1983, e poi... quello che dico è, al di là che si sia pro o contro all'utero in affitto, si può pensare che anche se non passasse la stepchild adoption non continuerebbe questa pratica. Quindi quello che forse si vuole normare è, i figli ci sono e altri probabilmente inevitabilmente ci saranno. Quindi vogliamo in qualche modo tutelarli o no? È possibile che la questione alla allora, fine sia questa? Il matrimonialista dice una cosa corretta, cioè in questo momento la persona che rimane orfana e che ha il genitore naturale che si mette con un'altra persona dello stesso sesso, in questo momento la legge diciamo lo consente, quindi non c'è bisogno di andare a sperimentare nuove forme di legge. Ma detto ciò, è evidente che non basta soltanto questo aspetto, cioè io penso che sia fondamentale comprendere che poi l'eliminazione di questo articolo 5 dalla legge, che certamente metterebbe a posto la coscienza non tanto di noi, della posizione del nuovo centrodestra, ma mi riferisco soprattutto a quelle donne, quegli uomini che in questo momento vivono seri problemi di coscienza dentro il Partito Democratico e dentro il 5 Stelle. Ed è chiaro che questa è una cosa che è un vulnus pesantissimo, che servirebbe a togliere molti contratti, perché è evidente che questa è una norma terribile, orribile che pone veramente seri problemi alla coscienza. Pagano, le chiedo un'ultima cosa, poi devo dare proprio un 20 secondi, 30 secondi di risposta anche a Paola Concia. Ma lei lo sa che comunque questo riguarda le coppie di uomini, per quanto riguarda le coppie di donne, lei sa che nessuno può fermare una donna che vuole un figlio, anche una singola eterosessuale, anche un eterosessuale in coppia, no? Quindi in quel caso lei che cosa pensa? Ma io non penso nulla, io penso che il principio vada assolutamente salvaguardato, cioè di una norma terribile, orribile, che certamente non può essere fatta. Poi ognuno, lei ha appena citato il caso della donna, può aggirare l'ostacolo come vuole, ma intanto noi non possiamo far passare il principio della mercificazione. E comunque una donna che diciamo rimane incinta, per come l'esempio che ha appena detto, mi sembra che poi alla fine tutto sommato è una scelta che attiene alla sua persona e riguarda lei stessa. Invece cosa ben diversa di due uomini che vanno a comprare l'ovocito di un'ucraina e poi la fanno inseminare da un'indiana. Mi pare che ci sia una bella cosa e dovrebbe essere la rivolta di tutti. Chiarissimo, onorevole Alessandro Pagano. Quindi c'è stata questa distinzione. Paola Concia, proprio abbiamo un minuto. Sì, appunto, ma lei si rende conto? Io con grande rispetto di Radio 24, ma voi vi rendete conto che avete fatto parlare mezz'ora lui dell'utero in affitto che non c'entra niente con la legge sulle unioni civili? E lo dica lei. È perché questo è il problema italiano. E cioè Pagano ha parlato di una cosa che intanto l'adozione del figlio del partner è prevista dal 1980. Infatti, come si dice, affitto di casi che continueranno, non lo ha detto. L'ho appena detto io. L'ha appena detto lei. Sì. Dopodiché, siccome si evocano scenari apocalittici, cosa vuole che le risponda? Non è così, non è come dice Pagano, punto. Perché questa legge, la stepchild adoption, che cosa fa? Cerca di sanare qualcosa che già esiste, cioè bambini che sono discriminati rispetto ad altri bambini. L'operazione di Pagano, operazione politica che io capisco di Pagano e di molti altri, moltissimi altri, assecondata dai mass media, è quella di avvelenare i pozzi di questa legge con lo spauracchio dell'utero in affitto. La legge Cirinna non autorizza l'utero in affitto. No, infatti, punto. Questo lo dicevo anche chiaramente. Per salvaguardare. Per raccontare questo scenario apocalittico che gli italiani. Gli italiani, nella quale naturalmente tutti noi siamo sentiti, perché siamo tutti contro lo sfruttamento del corpo femminile. Francamente, che Pagano mi viene a fare lezioni di femminismo è abbastanza surreale. Francamente, Pagano, basta. Ancora un minuto, poi devo veramente mi chiudono. Paola Concia, prego. Io sono femminista da sempre, mi faccio fare lezioni di permetto a Pagano di fare lezioni di femminismo sullo sfruttamento del corpo femminile. Ma stiamo scherzando, ma davvero? Cioè, lo stepchild adoption non c'entra niente con l'utero in affitto. Pagano lo sa, perché l'utero in affitto in Italia è vietato alle coppie eterosessuali e alle coppie omosessuali. Paola Concia, mi faccia una previsione su come andrà questo disegno di legge e poi ci dobbiamo lasciare. Io mi auguro che la coscienza dei senatori faccia sì invece, al contrario di Pagano, che questi bambini che vivono, che vanno a scuola probabilmente anche con i figli di Pagano, questi bambini che sono discriminati rispetto agli altri bambini possano avere la possibilità di essere bambini tutti uguali. Questi bambini esistono, sono già nati, vivono tra noi. Chiarissimo. Questo io mi auguro. Come stavo dicendo, grazie Paola Colce. Grazie a lei. Grazie, grazie. Alessandro Pagano. Grazie. Noi ci risentiamo tra poco. Radio 24, Sky e RDS ti aspettano per le selezioni di RDS Academy, l'unico format TV che ti apre le porte del mondo della radio. Invia ora il tuo provino tramite l'app o su radio24.it. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Maestro! Stop! Che c'è? Io penso che abbiate sbagliato musica. Non ti piace? Una un po' più solenne. Gabriel vuole una musica più solenne. Qua, grazie. Un po' funerea, ecco, mi sembra. Ci siamo ricollegati un secondo con Sanremo per la discesa del terzo valletto, oltre a Maddalena Ghenea e Virginia Raffaella, che stasera è in veste di Carla Fracci, c'è cioè Gabriel Garco, che ieri mi sembrava fosse un po' in difficoltà, poi capiremo stasera con la nostra inviata se è stato un pochino più sciolto, deve ancora scendere da lassù, dalla scala, mentre noi adesso ci occupiamo, continuiamo a occuparci, Roberta Giordano sempre con voi, di cose serie. Abbiamo sentito l'animato confronto prima tra Paola Concia, ex parlamentare del PD, Alessandro Pagano, del Nuovo Centrodestra, sulle unioni civili. Tra pochissimo parleremo invece di questo maxi decreto per regolare alcuni punti critici del sistema bancario, al quale dovrebbe lavorare in queste ore il Consiglio dei Ministri. E intanto volevo dare un'occhiata ancora ai vostri messaggi a proposito di voto palese e voto segreto. C'è per esempio su WhatsApp, ogni tanto riesco a leggere anche qualcuno dei vostri minuscoli messaggi qui su WhatsApp, ma non è colpa vostra. Un po' il video, dice un ascoltatore, avessero il coraggio delle loro opinioni e di dire a viso aperto e a carte scoperte no, io sono contro, oppure io sì, sono d'accordo. Poi dice Ulisse, Renzi a casa, governo a casa, dalla Cirinnà nasce una nuova maggioranza in Italia ed è di centrodestra, dice Ulisse. E poi invece un altro ascoltatore al 349-238-6666 dice, se uno vuole esprimere le sue convinzioni solo nel proprio intimo non va a fare il parlamentare. Sulla pagina Facebook di Effetto Notte, Cristiano dice, le carte devono essere scoperte, le parole chiare, le scelte limpide, coprirsi dietro la delicatezza del provvedimento non imprime serietà e forza a questa realtà di legge. Vi ricordo adesso quali sono le notizie più importanti della giornata. Unione Civili, abbiamo appena parlato, il disegno di legge Cirinnà supera il primo voto al Senato, nel PD tensione sulla libertà di coscienza, frase shock di un consigliere ligure della Lega che poi smentisce, il Portogallo dal via libera alle adozioni gay. Mercati rimbalzano le borse europee, Milano vola coi bancari a più 5%, probabile rinvio del rialzo dei tassi americani. L'omicidio di Giulio Regeni, sarebbe stato ucciso in un appartamento del centro del Cairo, dice un quotidiano egiziano. Il Times parla di omicidio vergognoso. Migranti, l'Unione Europea va avanti con la procedura contro l'Italia sui rifugiati e sblocca 124 milioni per i salvataggi in mare nel nostro paese. Francia, via libera dei deputati alla legge per la revisione costituzionale. Tra i punti, la revoca della nazionalità per chi si macchia di reati legati al terrorismo. Amministrative, per il centrodestra Stefano Parisi dice sì alla candidatura di sindaco per Milano e a Roma Rita Dalla Chiesa invece si sfila. Zika, l'OMS lancia un monito, le donne incinte che hanno contratto il virus e temono la microcefalia dovrebbero avere l'accesso a un aborto sicuro. Sanremo ieri debutto con Ascolti Boom, stasera seconda serata del festival tra gli ospiti Eros Ramazzotti e poi arriverà verso le 23 Nicole Kidman. E da Roma è collegato in diretta il nostro Vincenzo Miglietta. Vincenzo, vedo Patti Pravo, e forse Patti Pravo, tu mi perdoni se alzo un attimo, Vincenzo, vuoi sentirla anche tu? Prego, prego. Ecco. Quello che poteva sembrare allora, ma tu chi sei, che cosa vuoi e come mai? Sono io, nemmeno lei, ma i cieli sono in me. Cieli immensi. sì, Vincenzo, scusami, proprio un attimo così di lirismo. Invece andiamo sulle cose più pratiche. Col Consiglio dei Ministri come sta andando a proposito di questo maxi decreto per le banche? Sì, Consiglio dei Ministri, buonasera ai nostri ascoltatori. Ciao, Vincenzo. Che è stato convocato alle 21, non è iniziato puntuale, però c'è molta attenzione da parte del governo su questo maxi decreto, lo anticipavi giustamente da studio, che dovrebbe dare un'accelerata verso una maggiore stabilità del sistema del credito italiano e almeno è anche quello che si spera possano apprezzare i mercati, e soprattutto lo ricordiamo alla vigilia dell'Eurogruppo, nel quale si discuterà proprio di credito e di unione bancaria. E in questo maxi decreto si prevede la riforma del credito cooperativo, nuove norme sulle procedure fallimentari per il recupero dei crediti e il meccanismo di garanzia concordato con l'Unione Europea per lo smaltimento delle sofferenze, mentre invece non dovrebbero trovare spazio questa sera nel decreto dell'esecutivo le norme sugli indennizzi agli obbligazionisti delle famose quattro banche salvate dal governo a fine novembre. Grazie Vincenzo Miglietta e buon lavoro, buona continuazione allora lì al Consiglio dei Ministri. Ciao Vincenzo. Stavo guardando ancora i vostri messaggi. Alessandro dice: io sono contro le cosiddette unioni civili, scrive sulla pagina Facebook di Effetto Notte, ma se fossi parlamentare non avrei problemi a dirlo apertamente. Il Parlamento non è una setta segreta. Stefano scrive: allora si dovrebbe farlo sempre, non per forza in questa occasione. Vogliamo lasciarci ancora per questa pausa con un po' di Patti Pravo? Sempre fascinosa, devo dire. Ci sentiamo tra poco. Effetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Ancora i vostri messaggi, poi tra poco ci collegheremo con Sanremo, giusto per avere un aggiornamento, per sapere un po' come sta andando questa seconda serata. Mentre qualcuno scrive: è assurdo sentirsi dare lezioni di femminismo da questi bacchettoni, al 349-238-6666, a proposito diciamo del confronto piuttosto vivace che c'è stato poco fa tra Paola Concia, ex PD, ex parlamentare PD, e il deputato del Nuovo Centrodestra Alessandro Pagano. Mentre continuate con i vostri messaggi, con le vostre opinioni a proposito dell'opportunità del voto palese o del voto segreto su un tema come questo delle unioni civili, vi ricordo quali sono le notizie più importanti molto brevemente. E appunto c'è sempre in testa il disegno di legge Cirinnà, che ha superato il primo voto oggi, però se ne riparla adesso settimana prossima della discussione in Senato, scontro intanto nel PD con i Cattodem a proposito della libertà di coscienza. E poi le borse che rimbalzano, Milano che chiude oggi a un più 5% e la presidente della Banca Centrale Americana Yellen che dice: ci sono, attenzione, dei rischi per l'economia, quindi si allontana il rialzo dei tassi. L'Unione Europea che va avanti con la procedura contro l'Italia sui rifugiati e il presidente del Consiglio Renzi avverte: l'Unione Europea suona mentre il Titanic affonda. E dalla Chiesa si sfila Rita Dalla Chiesa per quanto riguarda le amministrative, le candidature per Roma, mentre Stefano Parisi in campo a Milano ufficializza la sua candidatura. Salta intanto il vertice del centrodestra. Salvini irritato dice: non per Rita Dalla Chiesa ma per la modalità con cui è stata presentata la sua candidatura. E poi per quanto riguarda l'omicidio Regeni, sarebbe stato ucciso in un appartamento del centro del Cairo secondo un giornale indipendente egiziano, mentre il giornale Times, New York Times, dice è stato un omicidio vergognoso. Europa 24 notte. Parliamo di migranti e delle raccomandazioni di Bruxelles. Sulla gestione dei migranti si deve cambiare marcia. Il commissario dell'immigrazione Avramopoulos invia una lettera a tutti i 28 paesi membri affinché si attuino le misure concordate. Rimproveri in particolare, come dicevamo, sia all'Italia ma anche alla Grecia sugli hotspot. Dagli hotspot ai ricollocamenti sino al piano d'azione con la Turchia, la Commissione europea mette nero su bianco raccomandazioni e puntualizzazioni con l'obiettivo di far pressione sugli Stati membri perché accelerino sull'attuazione delle misure per gestire la crisi dei migranti. Una lettera è stata spedita dal commissario all'immigrazione Avramopoulos a tutti i 28 paesi affinché si cambi marcia. Over the past months we have initiated many actions, but we all agreed that efficiency on the ground is lacking. We have lost time already, and this is not acceptable. Abbiamo perso troppo tempo, dice Avramopoulos, e non è accettabile. Dobbiamo più che mai rafforzare il nostro impegno con azioni forti affinché le misure concordate vengano adottate, in particolare sui ricollocamenti, anche perché quest'anno un numero significativo di migranti potrebbe tentare di nuovo di raggiungere l'Europa. Il commissario mette in chiaro che quei migranti che hanno diritto alla protezione saranno protetti, ma non spetta loro decidere in quale Stato membro, mentre gli altri che non ne hanno diritto saranno rimpatriati. We must make clear that those migrants that arrived in the Union will be protected if they are entitled to, but it is not up to them to decide in which member state. That migrants who do not qualify for protection will be returned. Il rapporto della Commissione contiene rimproveri soprattutto nei riguardi di Italia e Grecia, paesi che hanno sì compiuto progressi, ma che sono ancora indietro, in particolare sull'identificazione. Roma e Atene devono assicurare che tutti gli hotspot siano attivi, dice il commissario. In Italia, ad esempio, non sono stati finalizzati ancora i piani per Augusta e Porto Empedocle, mentre sui ricollocamenti siamo ancora molto indietro rispetto all'obiettivo dei 39.600 rifugiati in 2 anni. Altra bacchettata sul tema della residenza ai rifugiati. Arriva il secondo passo della procedura di infrazione aperta a luglio 2013 contro l'Italia perché non ha notificato le misure previste dalla direttiva che estende le regole per prendere la residenza anche ai rifugiati residenti di lungo periodo. Su questo Bruxelles ha inviato la lettera di messa in mora anche a Francia, Grecia, Lettonia e Slovenia. Possiamo invece stare tranquilli per ciò che riguarda le impronte. As long as we move ahead, we see things getting better. The situation is improving in Italy. I'm sure there won't be any clouds over this issue. From the moment Italy is doing what it's supposed to do, there is no reason to worry. Quando ci sarà la prossima valutazione sulla procedura di infrazione per la mancata raccolta, dice Avramopoulos, non ci sarà nessuna nuvola. L'Italia sta facendo come tutti gli stati membri per rispettare gli impegni e quindi non c'è ragione di preoccuparsi. Altra buona notizia è il via libera alla riprogrammazione di 124 milioni di euro di fondi comunitari già assegnati all'Italia, che ora potranno essere utilizzati per cofinanziare misure destinate al salvataggio in mare dei migranti. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore. Europa 24 notte. In collaborazione con Euronet Plus. Stanno chiacchierando sul palco lì a Sanremo, vedo bambini, vedo Garco, imparato come sempre, e Conti che stanno parlando, quindi non rientriamo con la musica, ma ci colleghiamo con Sanremo con la nostra inviata Marta Cagnola. Ciao Marta. Ciao Roberta, sì, perché tu stai conducendo la trasmissione, non sai chi sono questi bambini, sono i due allievi della scuola d'Italia più piccola di tutte, sono gli unici due allievi di una scuola, ma adesso è salito sul palco il terzo bambino che sarà l'anno prossimo il terzo allievo della scuola, quindi la scuola sarà composta da 3 bambini e una maestra. Marta, senti, ieri c'è stato decisamente un risultato positivo degli ascolti, 11 milioni di persone hanno visto il Festival di Sanremo, il resto, bisogna dirlo, era ad ascoltare Effetto Note, però un buon risultato. Beh, per certo. Il Festival, è vero Marta? Ma certo, anche perché noi parliamo del praticamente 50%, 49-48% di share, ma 11 milioni, quindi il 100% fa 22 milioni, gli italiani sono molti di più, gli altri ascoltavano la radio, mi sembra assolutamente matematica. Chiarissimo, e mi sembra che la RAI comunque sia soddisfatta, mentre anche noi qui Effetto Notte su Radio 24 siamo soddisfatti. Devo dire che anche la RAI, no, ha detto che insomma la RAI cambia, la RAI cambia. Questa volta dobbiamo riconoscerlo, a volte siamo un po' critici, ma questa volta dobbiamo riconoscerlo. La soddisfazione di Carlo Conti, che però è sempre uno molto misurato, dice sì, ma come l'anno scorso siamo contenti, ma bisogna ancora pedalare. La soddisfazione di Giancarlo Leone, direttore di Rai 1, e oggi ha parlato anche Antonio Campo Dall'Orto, nuovo direttore generale Rai. Era importante questo intervento perché insomma sono i nuovi vertici Rai, quindi è il primo Sanremo proprio dell'ingresso dei nuovi vertici Rai, e so che abbiamo una voce della reazione di Antonio Campo Dall'Orto, che oggi ha parlato proprio in commissione di vigilanza. Oltre al dato, credo molto soddisfacente, sicuramente è per noi molto soddisfacente, visto che tendenzialmente le seconde edizioni delle conduzioni tendono a scendere in termini di risultati, ma la cosa interessante secondo me, rispetto alle cose che avevo già condiviso con tutti voi, è che un evento come questo sta diventando sempre più figlio del mondo dei social. Mondo dei social, infatti, nonostante Marta Sanremo sia sempre stato considerato il programma nazionale popolare per eccellenza, l'evento tradizionale per antonomasia, mi sembra che con i social, Twitter, Facebook, abbiano conquistato anche una certa fascia di giovani. Sì, effettivamente se si fanno i conti, in realtà di solito il pubblico di Rai 1 è molto più alto come età media. Allora, nel target 15-24 anni, cioè i giovani, ha fatto lo share del 58%. L'anno scorso era il 6% in meno, quindi c'è il 6% in più di giovani che l'ha guardato rispetto all'anno scorso. Sicuramente l'abitudine di seguirlo anche sui social, magari di criticare, di fare le battute, ci sono anche persone molto spiritose, aiuta i giovani a avvicinarsi all'evento. Scusa, a proposito di persone spiritose, vedo un messaggio adesso di un ascoltatore che si dice Marco Bello e Maledetto, quindi consapevole come Garco del suo sex symbol, e dice: Garco ha l'espressività di un branzino surgelato, bellone insignificante. Ti è parso così anche stasera? Mi sembrava un po' imbambolato. Guarda, stasera, lui come va letto, è bellissimo, cioè veramente, lo devo proprio dire con obiettività, non ha un difetto, è un uomo di una bellezza disarmante, non lo trovo sexy neanche un po', cioè è sexy come un tavolino, non ci posso fare niente. C'è chiaro. Senti, invece arriveranno sexy, penso, Nicole Kidman verso le 23, torna Eros Ramazzotti, poi questa è la serata in cui ci sono altri 10 big e cominciano anche i giovani, no? Sì, devo dirti che poi ci sono alcune canzoni che mi sono piaciute molto, è appena andata quella di Patti Pravo. Patti Pravo, immensa, sempre, è vero, guarda, fa sempre vibrare. Emozionante, recupera appena finita la trasmissione perché è da ascoltare, fantastica. Tra poco un'altra canzone che mi è piaciuta molto, che è quella di Valerio Scanu, e poi ancora la successiva, l'altra che mi è piaciuta più di tutti, quella di Francesca Michelin, quindi le più belle una in fila all'altra. Nel frattempo Eros Ramazzotti, Nicole Kidman arriverà tra poco e la grande sorpresa di Elio. Poi vorrei segnalarvi una cosa: questa sera andate a letto tardi, io non posso dire assolutamente niente, però ho saputo che Nino Frassica farà qualcosa di pazzesco. Non posso ancora dire niente, però non andate a letto. No, sarà non andate tardi, a letto sarà da vedere. Va bene, dopo effetto note si può ascoltare. Sì. Grazie Marta Cagnola dal Festival di Sanremo, buon divertimento, mentre noi ci risentiamo alle 22.